Grazie Pastore, grazie Roberto, fantastico lavoro che stai facendo. Stiamo preparando il setting, va bene? Il setting è la zona di lavoro, va bene? Riuscite tutti a vedere la lavagna? Sì? Perfetto. Questa sera, senza perdere tempo in preamboli, ci immergiamo direttamente, ok? In quello che è la nostra avventura. E questa sera leggeremo insieme il capitolo 15 degli Atti degli Apostoli e scopriremo come questo Gesù per tutti, che noi abbiamo scelto di far diventare il nostro motto per questo 2018, è un problema per molti. Io non lo so la tua esperienza, però quando io nel gennaio del 2002, 16 anni fa, ho riconosciuto di essere un peccatore, cioè ho detto io pecco, io sto sbagliando tutto, io non vado bene, cioè questa cosa che ho dentro di me è morte, io ho bisogno di essere salvato. E quando io ho riconosciuto questo e sono entrato, pensate un po', in una piccola porticina di un piccolo locale in via Santa Lucia, dove credo anche i temerari convertiti da 40 anni hanno incontrato Gesù, quando sono entrato in quella porta, Gesù mi ha detto: io ho una vita nuova per te. Io ti porto da essere morto nel tuo spirito ad essere vivo nel tuo spirito, perché io sono vivo, io sono risorto, io vivo oggi e io ho una vita abbondante per te. Per noi Pasqua è ogni giorno. Non siete, quando io rifletto su questo, non sei... Cioè, io non lo capisco che per me Pasqua è ogni giorno. E siamo circondati da persone che vivono un Gesù delle feste, che lo fanno vivere quando arriva la ricorrenza. E invece noi abbiamo capito che avevamo bisogno di un Gesù che fosse vivo ogni giorno, perché noi siamo morti senza di Lui. E quando io ho capito questo nel gennaio 2002, 16 anni fa, questo è stato un problema per molti. Cioè tutti i miei amici di università non erano molto contenti di questo fatto che avevo scoperto che Gesù mi aveva dato vita. Tutti i miei amici di comitiva non erano contenti, perché Gesù vivo dentro di me mi stava trasformando e io non stavo più pensando come pensavo prima quando ero morto, ma stavo iniziando a pensare dei pensieri nuovi, dei pensieri di vita che erano diversi da quello che gli altri stavano pensando. Per i miei familiari, per molti dei miei familiari è diventato un problema. Voi pensate un po' che mia nonna diceva sempre: quelli di Modugno, perché io sono di Terlizzi, quindi venivo in chiesa a Modugno, quindi per lei tutti i modugnesi erano sbagliati perché mi avevano fatto il lavaggio del cervello. Ti hanno fatto il lavaggio del cervello. E sapete cosa gli ho detto io? Ho detto: nonna, dovevi vedere che acqua sporca è uscita, era nera, puzzava, proprio di morte, sai, di corpi putrefatti. Ma c'è ancora molto che mi devo lavare il cervello io, tu non hai idea di quanto ancora il mio cervello deve essere lavato. Gesù per tutti è un problema per molti. Quando Cornelio, come abbiamo letto tempo fa in Atti al capitolo 11, si è battezzato, neanche il tempo di entrare nell'acqua, nella vasca, in casa sua, lui e la sua famiglia si sono battezzati, come sono usciti dall'acqua, a Gerusalemme già lo sapevano. Come a noi, no? Che sappiamo sempre tutte le cose. E già le hanno detto a Pietro: chi ti ha detto di entrare a casa di Cornelio? Uno, lui è un gentile e tu non hai niente a che fare perché lui è straniero. Due, ti sei seduto a mangiare con lui. Questi cibi consacrati che non sai come sono stati uccisi. Cioè, ma tu sei con noi o ci fai o ci sei? Tre, lo battezzi. Cioè, ma sei impazzito? Quando ci siamo battezzati solo noi, perché Gesù è venuto a noi che siamo le pecore di Israele. Come ti è venuto in mente? E che cosa gli ha detto Pietro? Pietro ha detto: come potevo io non dare l'acqua a coloro che avevano ricevuto lo Spirito? Perché lo Spirito Santo era sceso e aveva riempito la vita di Cornelio e di tutta la sua famiglia. Finalmente il tempo del particolarismo religioso è finito. Non erano più solo gli ebrei quelli che potevano essere salvati, c'eravamo anche noi. Ci potevamo salvare anche noi, cioè potevamo essere salvati anche noi. Coloro che erano considerati impuri, pagani, idolatri, lontani, fuori, ora avevano l'accesso attraverso Cristo Gesù e la sua grazia redentrice e salvifica alla presenza di Dio. Mancava solo una cosa ancora da discutere, che era un problema che dal capitolo 11 fino al capitolo 15 stava un po' attanagliando la Chiesa negli Atti degli Apostoli. Questo problema era la circoncisione. Io ho pensato di rendervelo molto pratico. Questo è un reale coltello con cui Feluccio taglia le carni e le ossa nella sua macelleria. Gli ho chiesto di portarmelo, ve lo lascio qui, giusto per tenerlo a mente. Noi ridiamo, però in realtà io questa sera voglio un po' capire con voi perché la circoncisione era così importante. Perché noi leggiamo in tutte queste lettere che troviamo nel Nuovo Testamento di questa circoncisione, sono circoncisi e quelli non sono circoncisi, e vi dovete circoncidere, e non capiamo. Allora, questa sera, rimanete con me, cerchiamo di capire insieme che cosa accade e perché la circoncisione era qualcosa di fondamentale per il popolo di Israele e per i credenti fino al momento in cui Cornelio viene salvato. Abbiamo Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e abbiamo l'umanità. Noi abbiamo deciso di mangiare la mela. La mela abbiamo mangiato? Noi abbiamo deciso che sapevamo meglio noi di Gesù e di Dio e dello Spirito Santo. E abbiamo detto a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, so fare io, tu non hai capito bene, cioè io ho capito meglio, la vita mia so io come devo decidere. Questo è quello che è successo. Questo è quello che succede ancora oggi. Che cosa è accaduto migliaia di anni fa? Che Dio ha detto, ok, io devo trovare un uomo che abbia un cuore puro e pieno di fede in tutta l'umanità, lo devo scegliere e devo costituire un popolo attraverso di lui. E Dio ha scelto Abramo e lo ha chiamato per fede. E in Genesi 12:3 leggiamo che in Abramo avrebbe creato una nazione. E che attraverso la nazione che avrebbe creato, attraverso Abramo e la sua discendenza, avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra. Genesi 12:3. Quindi che cosa fa Dio? Crea un popolo. Crea una nazione attraverso di Abramo. Gli ebrei. Gli ebrei erano il popolo separato e scelto da Dio rispetto a tutti gli altri popoli, che nella Bibbia noi leggiamo vengono chiamati gli stranieri. Che cosa accade? La circoncisione è qualcosa che precede le leggi che Mosè riceve, le tavole della legge. La circoncisione viene prima perché Dio dice ad Abramo, tu devi creare un popolo e questo popolo deve essere circonciso. E questa circoncisione accade nel 1896, prima di Cristo, cioè quasi 4.000 anni fa, Dio dice ad Abramo, tu devi circoncidere Isacco e lo devi circoncidere l'ottavo giorno. Voi sapete che l'ottavo giorno è il giorno, nell'ottavo giorno c'è il picco massimo di coagulazione nel sangue per un bambino appena nato. Se l'avessero battezzato il settimo giorno, Isacco sarebbe morto dissanguato. Se lo avessero battezzato il nono giorno, la cicatrice non si sarebbe rimarginata come nell'ottavo giorno. Circonciso, sì, scusatemi. Se l'avessero circonciso in un giorno diverso dall'ottavo, non sarebbe andata bene. E sapete, c'è uno studio scientifico medico che dimostra che la circoncisione negli uomini è una questione di igiene e preveniva malattie tumorali all'utero delle donne. È stato fatto uno studio su un campione di donne ebree in America e su un campione di donne non ebree negli anni 50 e ha dimostrato che le donne non ebree si ammalavano di tumori all'utero molto di più delle donne ebree perché i loro mariti, i loro uomini non erano circoncisi. Dio affida qualcosa di fisico che permette agli ebrei di prosperare e di avere una vita sana senza che loro lo capissero, senza che noi lo capiamo oggi, perché oggi siamo nel 2018 e le nostre norme di igiene sono molto migliorate rispetto a 1896, prima che Cristo nascesse. Giusto? Mi seguite? Quindi affida agli ebrei la circoncisione, che diventa la loro identità. Se tu sei ebreo, sei circonciso, non ci sono storie. E dà a Mosè la legge, e attraverso la legge lui definiva chi erano gli ebrei. La legge serviva perché gli ebrei erano un popolo che doveva essere diverso da tutti gli altri, doveva manifestare la presenza di Dio su questa terra e dimostrare che Dio non è come le divinità terrene. Dio non è come una statua che puoi idolatrare, Dio non è come un rituale divinatorio di tutti gli altri popoli, perché questo gli altri popoli facevano, offrivano dei sacrifici così gli dei terreni potevano essere più contenti delle persone che facevano questo sacrificio. Il loro Dio non era un Dio che portava loro ad avere una promiscuità sessuale, non guardare la donna ad altri. Questo salvava il popolo dalla promiscuità sessuale, che tutti gli altri popoli vivevano e vivevano anche nei loro rituali divinatori che facevano per le deità. Le malattie, tutte le malattie degli altri popoli, il popolo di Israele non ne aveva neanche una, perché anche le prescrizioni sul cibo erano per prevenire le malattie. Perché se tu mangi dei cibi che contengono il sangue che non hai fatto scolare, quello ristagna e ti crea delle malattie. E Dio aveva dato tante prescrizioni nella legge affinché gli ebrei vivessero sani, vivessero bene e non erano circoncisi. Non erano circoncisi tutti gli altri popoli. Che cosa accade? A un certo punto nella storia Gesù arriva. Ci siete con me? Gesù scende su questa terra. Chi era Gesù? Gesù era 100% Dio, 100% uomo. Nel suo essere 100% uomo, lui era circonciso. Lui era del popolo di Israele. Lui era il Messia che gli ebrei stavano aspettando. Gli altri popoli non stavano aspettando niente. Aspettavano solo di morire o di reincarnarsi a seconda della deità in cui credevano, in qualche altra bestia se erano andati male nella loro vita, o in qualche uomo se erano stati donne e si erano comportati bene. Di questo stiamo parlando. E Gesù viene e in lui abita corporalmente tutta la deità. Questo ci dicono i Vangeli, questo ci dicono le lettere del Nuovo Testamento, che in Gesù abitava corporalmente tutta la deità. Cosa fa Gesù? Gesù sale. E che cosa dice ai discepoli? Aspettate, perché questa pienezza della deità ritornerà. Ritornerà, aspettatela, non ve ne andate, perché quando ritornerà sarà sotto forma di Spirito Santo. Riuscite tutti a vedere? Sarà sotto forma di Spirito Santo. E quando lo Spirito Santo è sceso, prima che lo Spirito Santo scendesse, tutte le persone convertite al cristianesimo erano solo ebree. Prima di Cornelio, noi avevamo solo ebrei convertiti al cristianesimo. La Chiesa era costituita da ebrei circoncisi che avevano deciso di arrendere la loro vita a Gesù Cristo. E che cosa accade con Cornelio? Che anche gli stranieri convertiti al cristianesimo potevano entrare a far parte della famiglia di Dio. Perché non siamo più noi che decidiamo, ma è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo decide di riempire gli ebrei, e lo Spirito Santo decide di riempire gli stranieri. È lo Spirito Santo che decide. Che cosa significa questo? che mo tutti questi qua non circoncisi con queste schifezze sessuali che vanno facendo avendo rapporti con tutti, con la loro idolatria, con le cose schifose che si mangiano, con le loro tradizioni pagane, si devono mischiare con noi. Awe! Com'è? Noi siamo i rossi, quali sono i blu? C'è vuole a chi? Non c'è niente di rosso nel blu. Non c'è niente di blu nel rosso. Non puoi stare insieme. Stavamo così bene. Perché dobbiamo cambiare? Stavamo così bene. Gesù per tutti è un problema per molti. Leggiamo Atti. Alcuni, dal verso 1, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli dicendo: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, voi non potete essere salvati. E siccome Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano vivacemente con loro, fu deciso che Paolo e Barnaba e alcuni fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per trattare la questione. Infatti la questione era sorta in Antiochia, vi ricordate, avevano avuto il loro primo viaggio missionario, Paolo e Barnaba, e ora erano ad Antiochia, dove il problema della circoncisione era nuovamente sorto. Essi dunque, accompagnati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione degli stranieri e suscitando grande gioia in tutti i popoli e in tutti i fratelli. Poi, giunti a Gerusalemme, furono accolti dalla chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono loro le grandi cose che Dio aveva fatto per loro mezzo. Ma alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, si alzarono dicendo: bisogna circonciderli! Anzi, si alzarono così. Bisogna circonciderli! Dove sta? Bisogna che si circoncidano e comandare loro di osservare la legge di Mosè e tutto quanto. Della serie un po' il lupo perde il pelo, ma non il vizio. No? Erano farisei, si erano convertiti, però diciamo che stavano ancora lì che dovevano capire bene bene. Allora gli apostoli e gli anziani si riunirono per esaminare la questione. Ed essendone nata una vivace discussione, mi piace la parola di Dio come è diplomatica, una vivace discussione, si stavano arragando. Sulla circoncisione, io vi voglio ricordare, è un argomento molto delicato, si stavano arragando. Pietro si alzò e disse: fratelli, voi sapete che dall'inizio Dio scelse fra voi me, affinché dalla mia bocca gli stranieri udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio conosce i cuori, rese testimonianza in loro favore, dando lo Spirito Santo a loro come a noi, e non fece alcuna discriminazione fra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. La stessa fede che aveva scelto Abramo da tutta l'umanità peccatrice era la stessa fede che aveva scelto gli stranieri. Era uguale. Questo sta dicendo Pietro: vi siete dimenticati da dove veniamo? Vi siete dimenticati chi eravamo? Non è cambiato nulla. Dio non ha cambiato idea. Dio non cambia idea. Siamo noi che non capiamo tutte le idee che lui ha, perché il nostro cervello è un po' piccolo rispetto al suo cervello. Or dunque, perché tentate Dio mettendo nel collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Ma noi crediamo che siamo stati salvati mediante la grazia del Signore Gesù allo stesso modo di loro. La circoncisione non era mai stata una condizione necessaria per essere salvati. La circoncisione non era la condizione per entrare a far parte della famiglia di Dio, né tutta la legge poteva salvare. Tutta la legge che Dio aveva dato agli ebrei non poteva salvarli, non poteva dargli vita al posto della morte. Era Gesù che poteva dare vita. Era Gesù che avrebbe potuto spargere il suo sangue una volta e per sempre. E non c'era più bisogno di spargimento di sangue. Non c'era più bisogno di niente, perché Gesù era colui che compiva la promessa. Verso 12. Tutta l'assemblea tacque e stava ad ascoltare Barnaba e Paolo che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva fatto per mezzo di loro tra i pagani. Quando ebbero finito di parlare, Giacomo prese parola e disse: «Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come Dio dall'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo consacrato al suo nome. E con ciò si accordano le parole dei profeti, come sta scritto, che dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide che è caduta e restaurerò su di essa il mio nome». E le sue rovine rimetterò in piedi affinché rimanete degli uomini di tutte le nazioni su cui ho invocato il mio nome, loro cerchino il Signore e il Signore fa tutte queste cose. Questo sta dicendo Paolo, questo sta dicendo Giacomo, scusatemi. Tra gli stranieri io sceglierò delle persone che mi cercano con tutto il loro cuore e io ristabilirò la tenda di Davide. La tenda di Davide era la Chiesa, eravamo io e te. Verso 19, perciò ritengo che non si debba turbare gli stranieri che si convertono a Dio, ma che si scriva loro di astenersi dalle cose contaminate nei sacrifici agli idoli, dalla fornicazione, dagli animali soffocati e dal sangue, perché Mosè fin dalle antiche generazioni ha in ogni città chi lo predica nelle sinagoghe dove viene letto ogni sabato. Verso 22, allora parve bene agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba. Giuda, detto Barsabba, e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli, e consegnarono loro questa lettera. I fratelli, apostoli e anziani, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dal paganesimo, salute. Abbiamo saputo che alcuni fra noi, ascoltate bene qui, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre. Questo accade quando persone non mandate si automandano, turbano e sconvolgono. Non lasciarti turbare, non lasciarti sconvolgere da qualcuno che viene da te e non è stato mandato da nessuno. È parso bene a noi, verso 25, riuniti di comune accordo. Quando qualcuno viene mandato, c'è una riunione di comune accordo di scegliere degli uomini e di mandarveli insieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno messo a repentaglio la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Mi piace questo identikit. Hanno messo a repentaglio la loro vita. Non diffidare degli altri. Vi abbiamo dunque inviato Giuda e Silla. Anch'essi vi riferiranno a voce le medesime cose. Infatti, ascoltate bene qui, è parso bene allo Spirito Santo. Quando noi ci riuniamo di comune accordo, lo Spirito Santo scende e pare bene a Lui, di comune accordo con noi, di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, di astenervi dalle carni sacrificate agli idoli, e qui stiamo parlando dell'idolatria. Giacomo sta dicendo: ok, siete cristiani, mo basta con tutta l'idolatria che avevate prima. Queste carni sacrificate agli idoli ora non le fate più perché siete delle persone nuove. Non avete bisogno di sacrificare niente. Dal sangue e dagli animali soffocati basta a fare tutte queste schifezzerie. No, sa, niente più sangue. È Gesù che è morto. Stop. Stop al televoto. e dalla fornicazione. Ovviamente questo lo capiamo. Basta ad avere promiscuità sessuale nel vostro mezzo. Scegli con chi ti devi sposare e fai sesso con quella persona solo dopo che ti sei sposato. Da queste cose farete bene a guardarvi. E poi mi piace. State sani. State sani. Rinnova la promessa che Dio aveva dato agli ebrei a tutti quanti. State sani, prosperate, perché se non mangiate queste schifezze e non fate sesso con chiunque e vi mantenete puri e adorate solo Dio, starete sani, prospererete, starete bene, vivrete in abbondanza. Essi dunque presero commiato e scesero ad Antiochia, dove radunata la moltitudine dei credenti consegnarono la lettera. Mi piace il verso 31. Quando i fratelli l'ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che essa portava loro. Quando ti mandi da solo, turbi e sconvolgi, ma quando vieni mandato, consoli e rallegri. Giuda e Sila, anch'essi profeti, con molte altre parole li esortavano e li fortificarono. E dopo essersi trattenuti là diverso tempo, i fratelli li lasciarono ritornare in pace a coloro che li avevano inviati. Ma parve bene a Sila di rimanere qui. Paolo e Barnaba rimasero ad Antiochia, insegnando e portando insieme a molti altri il lieto messaggio della parola del Signore. Punto numero uno. Gesù per tutti trasforma il tuo colore. Non c'è niente di rosso nel blu e non c'è niente di blu nel rosso, ma quando il giallo dello Spirito Santo scende e riempie il tuo cuore, lui trasforma il tuo rosso in arancione. E quando lo Spirito Santo scende e riempie il tuo blu con il suo giallo, e riempie la tua vita, il tuo blu diventa verde. Non rimani rosso e non rimani blu. Non perdi solo il pelo, ma perdi anche il vizio. E io ho una dimostrazione qui, perché questi sono i colori primari. Rosso, blu, lo Spirito Santo si shakerà. Rosso, scende nel tuo rosso, ti riempie, ti mischia, e il tuo rosso non è più rosso, ma è arancione. Lo Spirito Santo scende nel tuo blu, ti riempie, il tuo blu diventa verde. Dovevo fare tutta la centrifuga. Io lo vedo da sopra, però non si vede da là. Si vede? Non c'è niente di rosso nel blu e non c'è niente di blu nel rosso, ma c'è dell'arancione nel verde e del giallo dello Spirito Santo. E c'è del verde nell'arancione e del giallo dello Spirito Santo. E questa è la Chiesa. Questa è la Chiesa che Dio aveva in mente da prima delle età presenti. Quando Gesù viene, lui trasforma il tuo colore. Punto numero due, Gesù per tutti è qualcosa di intimo. Gesù per tutti non solo trasforma il tuo colore, ma è qualcosa di intimo. È intimo come la circoncisione. Perché tu sai, nel profondo del tuo cuore, che significa che Gesù ti ha dato vita. Quando tu ti guardi dentro di te, tu lo sai che cosa è morto e che cosa Gesù porta a vita. Gesù per tutti parla di me e di te. Parla di quello che c'è nel nostro cuore. E quanto più intima diventa la consapevolezza che Lui ti ha portato dalla morte alla vita, più tu sarai in grado di amare le persone intorno a te. Perché tu capirai quanto amore Gesù ha dato per te. E Dio mi sta dicendo ultimamente, ma tu hai capito che io ti amo? E gli ho detto, com'è? Non mi hai visto. È dal 2002 che l'ho capito. No, non l'hai capito. Perché se tu l'avessi capito veramente, ameresti il tuo prossimo di più. Quindi forse non ti stai amando come io ti ho amato, e come io voglio amarti e come io ti amo. Che stai aspettando? Eh no, ma io non mi sento. No? C'hai quei giorni dove non ti senti? I miei sentimenti, le mie emozioni. L'amore che Gesù ha avuto per noi è stata una scelta. Non ha niente a che fare con le mie emozioni e con i miei sentimenti. Lui ha scelto di amarmi. Ed è questo quello che mi manca. Ricordarmi che se anche io non mi sento di amarmi o che Lui mi ha amato, Lui ha scelto di amarmi. Ma io mi metto a pregare, però passa un minuto, passa 2 minuti, passa 3 minuti, io non sento niente, oggi non mi sono sentito proprio di pregare, non me la sento. Sai quando tu non te la senti? Cioè, non mi viene, fatelo venire. Passa il primo minuto e non senti niente, passa il secondo minuto e non senti niente, voglio vedere se dopo 10 minuti, se il tuo cuore si apre, voglio vedere se lo Spirito Santo non scende. Voglio vedere se lo Spirito Santo non fa la differenza nel tuo cuore. Gesù per tutti cambia il nostro colore, è qualcosa di intimo. Gesù per tutti è un mistero. È un mistero. E io ho trovato un verso in Efesini che l'Apostolo Paolo scrive, che voglio leggere a voi questa sera, che ci dimostra come Gesù per tutti è un mistero nascosto in Dio, ma rivelato in noi attraverso lo Spirito Santo. Efesini 3, dal capitolo 3, dal verso 5, dice così l'Apostolo Paolo: nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. Questo mistero non era stato rivelato a loro perché lo Spirito Santo non era sceso, ma ora è sceso. È la salvezza che Dio aveva preparato per tutta l'umanità, per tutti. Ora è rivelata. Cosa ne stai facendo di questo mistero rivelato a te? Questo è quello che mi sono chiesto io. Tu lo hai capito bene, Antonio, sto fatto? O no? O fai finta come se non c'è? Continua al verso 8. A me dico che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, per mezzo di me e per mezzo di te, i principati e le potestà possono conoscere oggi la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Gesù Cristo, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. Amen. Quando hai piena fiducia di Cristo Gesù, non hai bisogno di trovare risposta ai tuoi perché. Quando hai piena fiducia di Cristo Gesù, la smetti di farti le domande sbagliate. Quando ti fidi, giusto? Non devi comprendere, non devi capire, perché sai che è un mistero. È un mistero che Dio ti ama, è un mistero che noi siamo salvati, e non basterà la tua vita a capirlo, ma non per questo non spenderai la tua vita per capirlo. Solo lo Spirito Santo, riempendoti, ti può rivelare che non hai bisogno di capire, perché Lui ti dà pace. E sapete perché non abbiamo bisogno di capire? Perché la sua pace è una pace non come quella che il mondo ci dà. La sua pace non è la pace che le risposte che stai cercando ti possono dare. La sua pace va oltre. Permetti allo Spirito Santo di continuare a riempirti. Non ti accontentare dell'arancione che sei diventato. Puoi diventare più simile al giallo. Non è ancora finita la tua vita. C'è ancora da lavorare. Non ti accontentare del verde che sei diventato. Puoi diventare un verde fluoro. Lo Spirito Santo vuole ancora riempirti. Vuole ancora trasformare la tua vita, vuole ancora portare vita dove c'è morte. Gesù per tutti è per te, ed è per me, ed è per le persone intorno a te. Alziamoci in piedi. Questa sera stiamo per vivere la cena del Signore. Che cos'è la cena del Signore? È ricordarci di questo mistero. Nel caso in cui ce ne dimentichiamo, Gesù ce l'ha comandato. Non te lo dimenticare. È un mistero. E prendiamo questo pane, prendiamo questo vino, che simboleggiano il suo corpo spezzato per il nostro corpo e il suo sangue versato per il nostro sangue. E ci ricorda che non abbiamo bisogno di più nessuna legge, non abbiamo bisogno di niente, abbiamo bisogno di arrendere il nostro cuore a Lui. E se sei qui stasera per la prima volta o sei qui per le prime volte e non hai ancora deciso seriamente davanti a Dio che sei un peccatore, è una decisione che devi fare, io l'ho dovuta fare per me, e non hai deciso veramente di arrenderti, aspetta a partecipare alla cena del Signore. Fai questa scelta, fai questa scelta, scegli di seguirlo, scegli di battezzarti, scegli di iniziare un percorso serio con Lui, perché Gesù ha fatto sul serio con te. Lui è morto, non è più tornato indietro, non è sceso da quella croce, è ritornato al Padre. Partecipiamo alla cena del Signore questa sera, facciamo le nostre scelte. C'è tanto di giallo che deve entrare dentro di te, c'è tanto di giallo che deve entrare dentro di me. fallo questa sera attraverso la cena del Signore. Prendiamoci questo tempo per stare alla sua presenza e permettere a quel giallo di riempirci e diventare intimo, intimo nelle viscere nostre, dove tu ti guardi dentro e sai che sei vivo perché è Gesù che è vivo in te. E non dubiti di quello che gli altri ti dicono, non dubiti delle parole che senti, non dubiti di quello che potresti fare o non fare, non dubiti delle tentazioni che vengono intorno a te. Lo sai dentro di te che sei vivo, che sei vivo perché sai da dove vieni e sai che Gesù ti ha dato vita. Chiudiamo i nostri occhi e preghiamo. Signore Gesù, siamo qui davanti a te e sappiamo che in noi non c'è altro che morte, ma sappiamo che in te abbiamo vita. Signore Gesù, siamo venuti qui davanti a te, forse non abbiamo niente da poterti offrire, ma tu Spirito Santo hai tanto da poterci riempire. E io prego che noi possiamo tornare a casa questa sera non con mani vuote, non con mani di morte, ma con mani di vita, con mani piene di quello che tu sei, Spirito Santo. Io ti prego per ognuno di noi in mezzo a noi che non ha ancora fatto una scelta concreta di vivere una vita che parla di te ogni giorno. Spirito Santo, che in questo tempo tu possa parlare al loro cuore, che tu possa convincere di peccato, che tu possa convincere di giustizia, che tu possa convincerci di perdono, perché noi abbiamo bisogno di te e abbiamo bisogno di essere convinti da te. E vogliamo benedire questo pane e questo vino che rappresentano te e il tuo sacrificio per noi, questo mistero che tu hai allargato alla nostra vita. Grazie Signore Gesù, perché sei vivo. Ti amiamo con tutto il nostro cuore. Nel tuo nome lo preghiamo. Amen. In questa atmosfera di adorazione, mentre il gruppo lode ci guida, in un momento di adorazione possiamo venire avanti, ci sono i tavoli sui lati, e partecipare alla cena del Signore. Se non partecipi, non perdere questo tempo per stare alla presenza di Dio. Lo Spirito Santo è qui. È qui per chi partecipa, è qui per chi non partecipa alla cena. Perché comunque partecipi stando alla sua presenza. Amen.